A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. L'unica istituzione europea veramente federale che ha nel proprio statuto come obiettivo principale quello della stabilità dei prezzi nell'eurozona. Un'istituzione, la Banca Centrale Europea, presieduta da Mario Draghi, che da quando è esplosa la crisi nel 2008, che ha messo a dura prova la tenuta stessa dell'intera costruzione europea, ha acquisito un ruolo e un'importanza crescenti. Da ultimo con l'operazione del quantitative easing, vale a dire con l'acquisto diretto sul mercato secondario dei titoli dei vari paesi, si è imboccata la strada, decisamente contrastata in particolare dalla Banca Centrale Tedesca, di interventi non convenzionali diretti a immettere ingente liquidità nel sistema economico europeo. Ora, con le decisioni assunte lo scorso 10 marzo, il tetto degli acquisti è salito da 60-80 miliardi al mese fino a marzo 2017 ed è stato ulteriormente ampliato lo spettro delle misure a partire dalla politica dei tassi negativi, così da spingere il sistema bancario a riversare la liquidità in arrivo al sistema delle imprese e ai risparmiatori e dunque direttamente all'economia reale. Il tutto per contrastare la tendenza alla disinflazione che sta portando l'economia europea a un passo dalla deflazione e per provare a riportare il livello dei prezzi attorno al 2%, come prevede la missione principale della Banca Centrale Europea. Il primo passo verso l'istituzione della Banca Centrale Europea è stata la decisione, assunta nel 1988, di realizzare l'Unione Economica e Monetaria. La libera circolazione di capitali in Europa, un'autorità monetaria comune e una politica monetaria unica per i paesi dell'area dell'euro. Nel giugno 1988 il Consiglio europeo confermò l'obiettivo della progressiva realizzazione dell'Unione economica e monetaria e assegnò a un comitato guidato da Jacques Delors, all'epoca presidente della Commissione europea, il mandato di elaborare un programma concreto per il suo conseguimento. Il rapporto Delors, redatto a conclusione dei lavori, proponeva di articolare la realizzazione dell'Unione economica e monetaria in tre fasi distinte. Dal 1 luglio 1990 la completa libertà di circolazione dei capitali, il rafforzamento della cooperazione fra le banche centrali, il libero utilizzo dell'ECU, l'unità di conto europea, sostituita in seguito dall'euro, e il miglioramento della convergenza economica. La seconda fase ha avuto inizio dal 1 gennaio 1994 con la creazione dell'Istituto Monetario Europeo, il divieto di finanziamento del settore pubblico da parte delle banche centrali, il rafforzamento della convergenza economica, la progressiva realizzazione dell'indipendenza delle banche centrali. Infine, la terza fase, avviata dal 1 gennaio 1999 con la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione, l'introduzione dell'euro, la conduzione della politica monetaria unica da parte del sistema europeo di banche centrali, l'entrata in vigore dei nuovi accordi europei di cambio e del patto di stabilità e crescita. Mantenere la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, dunque, questa è la missione della BCE, e preservare così il potere di acquisto della moneta unica, salvaguardando al tempo stesso la stabilità del sistema bancario su cui ha la vigilanza. Così lo stesso Mario Draghi, che guida la BCE dal 1 novembre del 2011, il suo mandato scadrà nel 2019, riassume il ruolo della Banca Centrale Europea. La BCE persegue quell'obiettivo di stabilità monetaria nel medio periodo, un tasso di inflazione al di sotto ma vicino al 2%, che definisce il tetto massimo di questo intervallo. Ignorare la moneta equivale ad assumere assenza di rischio e di incertezza. Senza rischio, avrebbe sottolineato Keynes, non c'è moneta. Abbiamo in linea il professor Alberto Quadrio Curzio, economista e presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Buonasera professore, grazie. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, ci aiuti un po' a entrare più nel dettaglio nel ruolo che la BCE ha assunto. Noi abbiamo provato a sintetizzarlo brevemente in questi anni dalla crisi in poi. È un ruolo determinante, anche se lei stesso lo ha scritto più volte sul Sole 24 Ore, da sola la politica monetaria non può bastare. È un ruolo molto importante, è un ruolo che è stato svolto in misura assai significativa fin tanto che non è scoppiata questa grande crisi che dal 2008, o meglio dall'inizio del 2009, ci porta oggi al 2016. Nel primo periodo la BCE è riuscita con politiche monetarie sostanzialmente ortodosse, ma molto più difficili di quelle che tipizzano un paese ormai unificato politicamente, a mantenere la stabilità dei prezzi dentro intervalli del tutto accettabili, e questo ha favorito molto la crescita europea, ha favorito anche una notevole convergenza dei tassi di interesse sui titoli di Stato e in poche parole ha portato a un'affermazione di solidità della Banca Centrale e della sua politica monetaria. Purtroppo la crisi scoppiata a fine 2008 e poi accentuata nel 2009, che giunge fino ad oggi, l'ha posta di fronte a delle nuove impreviste difficoltà che via via soprattutto Mario Draghi sta affrontando con notevole pragmatismo e anche con notevole coraggio, perché non siamo più in un rischio inflazionistico ma siamo ormai in una realtà deflazionistica, e quindi le politiche monetarie cambiano completamente segno e forse non sappiamo ancora bene quale sia il vero tono della politica monetaria necessaria oggi. E infatti, professore, è tra i critici degli interventi della BCE, di queste misure non convenzionali, c'è sicuramente la Bundesbank, che va ripetendo che di fatto le manovre della BCE stanno comportando uno spostamento di fatto di risorse a beneficio dei paesi che hanno sistemi bancari più fragili e debito pubblico più alto, a danno dei paesi cosiddetti virtuosi. Ma secondo lei è una critica che è fondata? Secondo me non è una critica fondata, e non lo è per almeno tre motivi. Innanzitutto perché la Bundesbank a essa stessa ha avuto delle colpe, o meglio delle responsabilità, nel generarsi di questa situazione, perché quando la Bundesbank aveva degli adeguati poteri di vigilanza sul sistema bancario tedesco non ha esercitato questi poteri con la dovuta attenzione e rigorosità, ragion per cui questo sistema bancario si è profondamente impegnato con paesi che non avevano un merito di credito sufficiente e ha contribuito ad alimentare delle grosse bolle speculative. La bolla che esplosa poi nell'edilizia spagnola, dove le banche tedesche erano molto esposte, la situazione della Grecia, dove le banche tedesche erano molto esposte, e tutto ciò ha determinato poi una complessa operazione per far rientrare le banche tedesche da quelle pesanti esposizioni. Le banche italiane non erano esposte se non in misura minima, quindi la stessa Bundesbank come soggetto vigilante non mi pare che abbia brillato per occhiutezza o oculatezza. La seconda osservazione critica che vorrei fare è che proprio per questa situazione si è determinato un allargamento eccessivo degli spread tra i titoli sovrani dei vari paesi, che alla fine hanno molto avvantaggiato la Germania, perché la compressione dei tassi sui titoli tedeschi è andata ben oltre quella che era una fisiologia di divario tra i tassi di rendimento tra i titoli di Stato. E la terza e ultima osservazione è che la critica della Bundesbank oggi sarebbe una critica accettabile nella misura in cui la stessa non si opponesse, soprattutto in nome e per conto del governo tedesco, che peraltro ha le sue responsabilità, a delle politiche espansive di tipo fiscale. E questo evidentemente chiede alla politica monetaria una funzione di supplenza che non sarebbe necessaria laddove, come in qualunque paese che abbia un'impronta federalista o quasi federalista, si rende necessario politiche fiscali che facciano la loro parte. Lei, professore, più volte ha sostenuto la necessità che la politica monetaria venga affiancata da decisioni di politica economica e dunque l'azione dei governi. Perché non si riesce a fare passi in avanti, ad esempio in una delle sue proposte che mi sembra molto interessanti, quella dei cosiddetti union bond. Io credo che la ragione principale sia appunto l'opposizione tedesca, la quale ritiene che quel passaggio verso gli euro bond o gli union bond sia l'antistanza della mutualizzazione parziale del debito pubblico dei paesi europei. Certo. E questo è il fattore che rende la Germania ostile. Un altro fattore che potrebbe rendere la Germania ostile è che se ci fossero degli euro bond emessi in quantità significative sui mercati, diverrebbero concorrenziali rispetto ai titoli tedeschi, che comunque fruiscono di tassi bassi non solo da oggi ma ormai da diversi anni. E un titolo concorrenziale potrebbe essere capace di infastidire questa tranquillità della collocazione dei titoli di Stato tedeschi, che sono in parte prevalente collocati all'estero. Certo, professore, la ringraziamo moltissimo per questi chiarimenti e le auguriamo buona serata. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie, buona serata ancora.